l'annunciata per la realizzazione di un'Accademia internazionale della cucina d'autore presentata dal gruppo consigliare Cambiamo e Piedegrasso. Qui sarebbe l'illustrazione 2 minuti, la risposta 5 minuti e poi l'interrogante può dichiarare se soddisfatto e ancora 3 minuti. L'interrogazione è di 10 pagine, io faccio i migliori auguri non credo che lei in 2 minuti riesca a presentarlo, però se si sfora di poco è un conto, se si sfora di tanto. Prego. La procedura per l'affidamento dell'annunziata è già stata oggetto di altre interrogazioni di commissione consigliare ad hoc, ma risposte farraginose e articoli apparsi sulla stampa ci obbligano a questa nuova interrogazione. Sul Corriere si legge che Cracco aprirà la sua cucina all'annunziata entro Expo. Un comunicato stampa del PRC esprime la propria contrarietà all'affidamento a Cracco dell'annunziata per incamerare qualche migliaio di euro. Quindi l'annunziata va a Cracco per qualche migliaio di euro? Non occorre essere esperti di bandi pubblici per capire che qualcosa non torna. Innanzitutto abbiamo la notizia che un concorrente a bando, non ancora chiuso, sarebbe già pronto con il suo progetto. Progetto che noi e la cittadinanza non ha mai visto e che vorremmo conoscere nei contenuti nella proposta economica avanzata dalla Cracco Investimenti. Perché in rete esponenti del PRC dicono che l'annunciata sarebbe assegnata per 10 o 20 mila euro l'anno? Comprendiamo la generosità dei nostri amministratori a concedere beni pubblici a privati per affitti ridicoli. Ricordiamo, lo faremo sempre, il bocciodromo assegnato senza gara a 1000 euro all'anno alla società del cugino del sindaco fino al 2030, ma chiediamo che soddisfino i loro slanci di generosità con loro soldi e beni personali e non certo con quelli della collettività. L'annunciata ci è costata oltre 9 milioni di euro per operazioni di acquisizione, recupero e restauro, finalizzate ad attività a beneficio della collettività e non certo per farne una location esclusiva del plurimilionario Cracco, che può ben acquistarsi un immobile e ristrutturarselo senza che la sua esclusiva scuola venga pagata con le tasse anche di chi oggi non arriva a fine mese. Con la scusa di farsi pagare una parte delle spese ordinarie dell'annunziata, che è nuova di pacca, questa maggioranza si rende disponibile a mettere nelle mani della Cracco Investimenti per addirittura 30 anni l'immobile più importante dal punto di vista storico, sociale e culturale della nostra città. Molte sono le domande che abbiamo posto, innanzitutto lo stato del procedimento, a che punto è la modifica dell'accordo di programma e che parere ha rilasciato la soprintendenza rispetto a tale utilizzo. Dalle dichiarazioni rese dal sindaco nei giorni scorsi risulterebbe non definita la procedura, però si è proceduto in fretta e furia al confezionamento di un bando, addirittura conferendo una consulenza all'avvocato Comba. Era proprio necessario un professionista esterno? Dirigente e un segretario comunale di altissimo livello professionale non sono considerate all'altezza? Quanto ci è costato detto legale? E poi è il suo studio ad aver scritto il bando? Se così fosse ci sarebbe una grave negligenza nell'adempimento del mandato, considerato che nel bando ci sono diversi errori, articoli ambigui, fuorvianti e monchi. E qui mi chiedo, ma qualcuno i bandi li legge prima della pubblicazione? E poi i requisiti, dire stringenti è un eufemismo. Quindi vorremmo sapere quanti operatori avrebbero potuto partecipare al bando che ha visto una sola domanda ammessa alle fasi successive. Infine, concludo, vorremmo conoscere in base a quale ragionamento si è deciso che per poter partecipare al bando occorressero ben 7 milioni di fatturato, però soltanto 2,5 nel campo della ristorazione, perché qui la domanda sorge spontanea. Se l'obiettivo è quello di un'accademia di alta cucina, perché tagliare fuori chi fattura solo 6,9 milioni di euro nel settore delle cucine del food e invece ammettere chi ha 2 milioni e mezzo di food e magari 4 milioni e mezzo nel settore della consulenza con l'alta moda, alberghi di lusso, pubblicità o rivendita di auto usate? Risponde all'interrogazione l'assessore Colla, prego. Sì, grazie Presidente. Se il consigliere è d'accordo, io ci darò il numero dei vari paragrafi senza rileggere la titolazione, visto che ce l'abbiamo tutti, e procedo con le varie risposte, ricordando che si tratta di un avvio di procedura comunque per una manifestazione di interesse, procedura pubblica, affidamento e concessione di parte dei locali del convento dell'Annunciata. Allora, la prima domanda. È in avanzata fase di perfezionamento la modifica e la definizione conclusiva del suddetto accordo, in esito alla quale l'ex convento dell'Annunciata rientrerà nella piena disponibilità del Comune di Vietegrasso, che potrà destinarlo alle finalità di interesse pubblico che riterrà più opportune e compatibili con l'immobile. A tal fine si è svolto con i soggetti interessati un primo incontro nello scorso mese di novembre e ne è previsto un altro per il mese di gennaio 2015. Secondo punto, la soprintendenza si esprime sempre su progetti definiti, non potendo, come evidente, dare assenso a priori su semplici ipotesi di utilizzo, non supportate da documentazione dettagliata comprovante gli effettivi interventi che si intendono eseguire. Nello specifico, sottoposto il quesito in via interlocutoria, la funzionaria di zona non ha escluso in via pregiudiziale la possibilità di insediare una scuola di cucina, che potrebbe quindi trovare una collocazione compatibile con gli spazi. Occorre ora verificare in concreto le soluzioni tecniche che potrebbero essere adottate e serve anche una individuazione della destinazione d'uso dei singoli spazi che con le singole funzioni da insediare. Si potrà chiedere un parere preliminare appena sarà disponibile una soluzione anche di massima che riesca ad illustrare anche su base fotografica la variazione dei locali in progetto. Terza domanda. L'incarico professionale è stato conferito al professor avvocato Mario Comba con determinazione dirigente settore servizi tecnici ambiente numero 998 del 27/11/2013 per un importo di 10.000 euro oltre IVA 22%, contributi previdenziali 4% e quindi per complessivi 12.688 euro. Per un'attività, cito testualmente, di supporto legale in ambito di diritto amministrativo italiano ed europeo connesso alla procedura che si è giudicata particolarmente complessa e delicata. Quarta domanda. Trattandosi di procedura preselettiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse ad essere invitati alle successive fasi della procedura di affidamento, il concorrente partecipante non ha presentato alcuna proposta a valenza tecnica ed economica, ma soltanto la dimostrazione dei requisiti richiesti dei potenziali soggetti affidatari. La fase successiva, concluso l'accordo di programma, prevede un invito a presentare un'offerta sulla scorta delle esigenze del Comune. Si dà atto che l'attuale preselezione non vincola in alcun modo l'amministrazione ad invitare i soggetti richiedenti. Quinto quesito. Trattandosi di sola manifestazione di interesse, l'amministrazione non ha espresso indirizzi in merito alla successiva procedura di selezione del soggetto affidatario. Sesto quesito. Trattandosi di manifestazione di interesse, l'ammontare del canone concessorio non è stato determinato e verrà valutato prima dell'avvio della procedura negoziata. Nella richiesta di invito presentata dalla società Craco Investimenti SRL non vi è alcun riferimento al canone concessorio in quanto non oggetto della fase preselettiva. Settimo quesito, non li abbiamo contati. Ottavo quesito, la ratio è contenuta nella deliberazione di giunta comunale numero 14 del 30 gennaio 2014 con la quale si è deciso di avviare la presente procedura pubblica per verificare la presenza sul mercato di soggetti interessati all'affidamento in concessione di parte dei locali del convento dell'Annunciata per ivi stabilire un'accademia di cucina a vocazione internazionale con un forte legame col territorio lombardo in termini culturali, turistici, agroalimentari ed economici, 25% del fatturato, ma deve anche promuovere e sviluppare idonee sinergie tra il mondo produttivo e il sistema agricolo, turistico e culturale del territorio esteso al campo della moda, del design e dei settori di rilevanza per l'evento Expo 2015, ragione per cui su tali aspetti imprenditoriali è richiesto vi sia il 65% del fatturato aziendale. Nono quesito. In caso di concorrenti plurisoggettivi, ovvero in caso di partecipazione alla procedura di selezione dell'affidatario in forma di raggruppamento temporaneo di impresa, ATI, il mandatario dovrà essere in possesso almeno del 20% dei requisiti economici richiesti, con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari approvati entro il termine per la presentazione della richiesta di invito, mentre i requisiti complessivi in capo all'ATI potranno derivare dalla sommatoria dei valori economici finanziari dei singoli soggetti facenti parte dell'ATI stessa. Non si rilevano ambiguità di interpretazione che possano essere motivo di impugnazione da parte di terzi interessati. Di fatto la procedura non è stata impugnata da alcuno. Decimo quesito. In caso di concorrenti plurisoggettivi, anche i requisiti di ordine tecnico potranno essere detenuti dal mandatario dell'ATI con le stesse modalità descritte al precedente punto, in merito ai requisiti economici e finanziari. Non si rilevano ambiguità di interpretazione che possano essere motivo di impugnazione da parte di terzi interessati. Di fatto la procedura non è stata impugnata da alcuno. Prego, c'è il consigliere Finiguerra che ha 3 minuti per dichiarare se è soddisfatto o meno. Qualcuno in più, forse perché l'assessore Colla sforato. Sono assolutamente non soddisfatto. I bandi esistono per garantire trasparenza e concorrenza e qui quanti potevano partecipare alla selezione? Questa era la domanda più difficile. La risposta ve la do io. Al massimo 6 in tutta Italia, ma forse uno solo. Semplici coincidenze? Cracco partecipa ad Abbiategusto nel 2012, rimane estasiato dall'annunziata, così propone al sindaco di portare qui la sua scuola. Prima coincidenza, il desiderio di Cracco non coincide con il programma elettorale di Arrara, che così recita: trasformare l'Annunziata nel cuore cittadino della cultura, sede di qualche museo, corsi musicali, teatrali, attività culturali per giovani e meno giovani. Però quel desiderio è proprio quello che la maggioranza stava maturando, facendo evolvere il proprio programma, stravolgendolo in quella direzione. Così parte una procedura di evidenza pubblica per aprire una scuola di alta cucina all'Annunziata. Seconda coincidenza. Per l'Annunziata si vuole volare alto, quindi niente competenze del territorio, la retorica di Abbiategusto. Così i requisiti richiesti dal bando sono peggio delle 7 fatiche di Ercole, ma fino ad un certo punto. L'amministrazione vuole il top? Requisito 1. 4 menzioni nella classifica dei 50 best San Pellegrino negli ultimi 12 anni, ma su questo ci torniamo. Quanti hanno avuto almeno una presenza in questa classifica? 11. Quanti ne hanno avute almeno 4? Solo 6. E quante ne ha avute Cracco? 4. Il minimo richiesto dal bando. Terza coincidenza. Secondo criterio, le stelle della guida Michelin. Si vuole il top, ma in questo caso non si chiedono le 3 stelle Michelin, come quelle che Santina, ad esempio, ha avuto per 7 anni a Cassinetta. Ne bastano solo 2. Negli ultimi 12 anni, però, no. Per questo criterio si cambia ratio e bisogna avere le 2 stelle nel 2014. E quante stelle Michelin ha avuto Cracco nel 2014? 2. Quarta coincidenza. Terzo criterio, quello dei cappelli espresso. Qui si torna a chiedere di nuovo il massimo, 3 cappelli. Per quanti anni? Solo nell'ultimo anno. Quanti cappelli a Cracco nel 2014? 3. Quinta coincidenza. Infine l'ultimo criterio delle classifiche, le forchette del gambero rosso. Qui si torna ad accontentarsi di 2 forchette. Negli anni? No, sempre e soltanto nel 2014. Quante ne ha avute Cracco nel 2014? 2. Sesta coincidenza. Mentre le 3 stelle, cappelli o forchette, ovvero il top delle guide più blasonate, avrebbero tenuto molto più aperto il bando, essendo molti di più di 6 i ristoranti che hanno detti riconoscimenti, molti di più ma non Cracco, che ha solo 3 cappelli ma non 3 stelle e 3 forchette, a differenza degli altri potenziali concorrenti, settima coincidenza, il criterio della classifica dei migliori 50 ristoranti al mondo chiude tutti i giochi a solo 6 potenziali. Sono andato a vedere quando Cracco è stato nella classifica dei 50 best, nel 2007, nell'8, nel 9 e nell'11, per uscire nel 2012. Altri potenziali concorrenti invece lo sono ancora oggi. Ma è appunto sicuramente una coincidenza il fatto che, mentre per tutte le classifiche si utilizzano solo le ultime guide, per questo criterio si chiede di essere stati almeno 4 anni negli ultimi 12 anni. Ma poi perché proprio 4 volte e non 5 o 3 o 2, ma proprio 4 volte? Ma sono solo coincidenze, sia chiaro. E poi i criteri economici, il fatturato, 7 milioni di cui almeno 2 e mezzo nella ristorazione. Questo limite elimina almeno un concorrente, forse 2. I concorrenti potenziali rimangono quindi 4, al massimo 5 e tutti con sede fuori Regione Lombardia. Ma non basta avere 7 milioni di fatturato, bisogna avere anche una consulenza da 120.000 euro con una primaria azienda italiana o straniera nell'area food. Quindi se sono chef stellato che vivo del mio ristorante, ma non ho consulenze o contratti pubblicitari su come decorare delle banali patatine fritte, anche se fatturo oltre 7 milioni di euro, se non ho una consulenza per 120.000 euro, perché non 100.000, sono tagliato fuori. Sarà questa l'ottava coincidenza, ma Cracco, al momento del bando, aveva una consulenza con il ristorante Trussardi alla Scala e forse una con Palazzo Parigi in Brera, così recitano le cronache. Meno male che vi siete fatti aiutare da un legale, perché altrimenti chissà cosa combinavate. Infine, siccome non bastavano le barriere messe fino a questo punto, avete pensato che per aprire un'accademia di cucina occorresse avere esperienza in eventi e manifestazioni e progetti culturali per la promozione del cosiddetto Made in Italy di eccellenza, ovvero cibo, moda, design, con cuochi, hotel di lusso terminato, operatori della moda, tutto in un'ottica pro expo. Cioè per l'accademia di cucina all'Annunziata non è richiesta alcuna esperienza nell'insegnamento della disciplina, ma occorre praticamente essere ambasciatori di expo. E lo sapete Maroni che ha nominato ambasciatore di expo? Se non lo sapete immaginatelo, questa è l'ultima coincidenza. Adesso potete anche dire che Finiguerra e Cambiamo a Abbiategrasso è il solito complottista, come per il bocciodromo. Fate pure, tanto sapete benissimo qual è la verità. Ma se ancora non l'avete capito, questa città non è abitata solo da aspiranti partecipanti ai buffet, sempre più tristi e dai sorrisi scontati e di circostanza. L'Annunziata non è una patatina e la trasparenza da Abbiategrasso è sempre meno di casa. Noi presenteremo a questo Consiglio una mozione per annullare questo bando perché non lo condividiamo nel merito e lo contestiamo nel metodo. Grazie. Finito il Consiglio Comunale, però prima di andare via io volevo comunicarvi che il 1° gennaio alle ore 11 ci sono le bande cittadine che faranno gli auguri alla città e all'amministrazione in piazza Marconi, quindi chi non è stato